Sì, sì, adesso sì. Eh? Cerca di stare un pochino all'aperto, così ti sentiamo meglio, sono a dire. Okay, okay. Aspetta, così mi sentite? Sì, ti sentiamo perfettamente, sei in onda. Sei okay, diretto in onda. Allora, inizio. Mohammed è dentro il centro di Ponte Galeria, giusto? Ok. Inizio? Sì, sì, puoi iniziare. A me la parola. Sì. Signori difeso miei, sono qui per fare una denuncia al mondo intero. Perché? Perché sopra il cielo di ogni CEI, che significa il centro identificazione e espulsioni in tutta Italia, sorvola lo spettro dell'era di Hitler. Mi sto riferendo a centri dove venivano selezionati gli ebrei, quelli indotti al lavoro forzati e quelli alla soluzione finale del Boer, Himmler. Questa è la cruda e nuda verità di giorni nostri, nel CEI di tutta Italia. Senti, che non sono altro che una coppia sputa. E potete tranquillizzamente sentire ciò che prova ognuno di noi. Senti, ascolta, ti volevo fare una domanda. Naturalmente sì, abbiamo avuto notizie di un'ulteriore espulsione stamattina. Tu ne sai qualcosa? Espulsione di? Di oggi, di stamattina. Pronto? Mi senti? Sì. Sì, sì, ti sentiamo bene. Sappiamo che un altro detenuto stamattina è stato deportato. Tu ne sai qualcosa? Sì, hanno portato due. Sì, ci sai dire qualcosa di loro? È in Marocco. Però io voglio fare questo messaggio, no? Sì, certo, certo. Però intanto che fai il messaggio, ci dai anche delle informazioni di com'è la situazione adesso lì dentro? Tu sai che c'è una manifestazione che sta arrivando lì fuori Ponte Galeria. Sono tutti psicologicamente malissimo. Mohammed, ascolta, io... Cioè, che io prova sono... uno di noi rinchiuso qui dentro, sì, lo stesso clima che si respirava negli anni 40, con questi centri, con l'unica differenza che oggi non escano cadaveri, e bensì tutti toccati nel profondo delle nostre anime, è un solco che ci ha segnato per sempre, perché stanno uccidendo le nostre anime, tutti quanti noi qui ci hanno rovinato psicologicamente, e sfido qualsiasi psichiatra che mi dice il contrario. È vero che noi siamo in galera, anzi è peggio, ma non dormiamo più la notte per non avere l'incubo della polizia, dell'ufficio immigrazioni, che ti svegliano la mattina e dirti alzarti e devi andare a casa. A certe volte non ti danno manco l'opportunità di salutare i tuoi amici di sventura, e ciò non succede manco agli animali. Figuriamoci che ciò succede in un paese libero e democratico come l'Italia. Ma è la verità, e questo succede tutti i santi giorni, e non gli interessa se hai 20 anni o 30 anni o addirittura 40 anni. Ascolta, non hai permesso, ecco. Ascoltami. E puoi raccontare le condizioni in cui sono stati rimpatriati i due ragazzi di stamattina, quelli di ieri? Sto arrivando. Mi ascolti? Rimpatriati, e non importa se sei padre di figli nati qui, se non hai i documenti, ti sono scaduti, non importa, deve essere espulso, solo espulso. E questo è l'incubo di ciascuno di noi, ospiti qui. Noi siamo scappati dalle nostre terre per l'ingiustizia. Ascolta, Mohammed. Pronto? Mi ricordi il nome del tuo avvocato che ti sta seguendo per poter magari raggiungere i tuoi bimbi? L'avvocatezza mia e sta facendo salti mortali. Come si chiama? Si chiama Cristina Dorigon. Ok. E cosa ti ha detto ultimamente? Hai possibilità di uscire? Hai possibilità di essere... Questo ancora non lo so. Io spero di sì. Lei sta facendo salti mortali per me. Ok. Studio, la radio qui, tutta la gente che sta ascoltando può sapere come sono stati rimpatriati i ragazzi, fino a che ora sono stati chiusi i cancelli e tutto si è stato svolto normale o c'è stato... Raccontaci un po' la situazione, come l'hai vissuta tu da stamattina, ieri. Ecco, ci hanno chiusi ingabbiati. L'hanno portato il portavetto, il carrello, fino alle 10:30. Sì. E poi ci hanno aperti. Ci hanno dato il latte, il caffè. Siamo ingabbiati, solo zoo. Okay. Pensate che l'Italia fosse un paese libero, democratico, che erano popoli di immigrati, pure loro. E perché? Ma puoi raccontare come il discorso? Ascoltami. Scusami Mohammed, puoi raccontarci e puoi testimoniare di chi le patuie che stanno circondando il centro, chi quando andanti in mensa, chi ci sta, i poliziotti, i carabinieri, c'è qualcuno, c'è nessuno, c'è i cani, non c'è i cani, sì, racconta un po' l'ambiente com'è. Sì, vedi, elicotteri, esercito, finanza, carabinieri e Guantanamo qua. Fammi finire la storia per cortesia. Prego. Qua è la storia. La stanno rovinando a loro comodo. Ma io sto notando sulla mia pelle che la storia si sta ripetendo. Prima c'era da combattere il fascismo, ma ora si deve combattere per non cascare di nuovo nelle sbaglie del passato, iniziando a chiudere questi maledetti centri. Perché chi... Sì. Divide l'amore e l'odio, è solo una linea sottile. Cercate di averne cura, se no quella linea a chi si strappa, il resto diventerà solo una cronaca e odio. Noi non vogliamo arrivare a questo e noi siamo numeri sia per la statistica della Chiesa sugli immigrati o numeri di euro nelle tasche dei potenti che hanno inventato questi centri è vero. Arricchirsi sulle spalle di noi poveracci, e noi siamo numeri sui tesserini che al posto di chiamarci di nomi ci chiamano di numeri come faceva una volta. Gli ebrei. Mettete mano sulla vostra coscienza, siamo esseri umani, non bestiami, non animali. C'è qualcuno, scusa Mohammed. Ricordatevi, non giudicati, non volete essere giudicati, stanno provando a toglierci anche la nostra dignità. Vi prego, noi dobbiamo arrivarci tardi e poi diciamo si poteva evitare. Iniziate voi a dire l'esempio, voi che a dare l'esempio, voi fate la legge, fatela per giusta causa, non fatela per una vostro rendiconto. E ricordate anche che siamo nella capitale del cristianesimo. Sì. Cristianesimo. Mohamed, pronto? Pronto. Senti, c'è qualcun altro vicino a te che vuole parlare qui in radio, qui per radio? C'è Said, ad esempio? No, Said sta lontano. Passa qualcuno che magari... E poi lui... mandiamo un messaggio adesso al Papa Francesco. Ok. Papa Francesco, facci sentire la sua voce. Per favore, che Dio li benedica. E anche preghiamo al rabbino di Roma e anche l'imam della comunità islamica di Roma. Il Santo Padre a accogliere il nostro invito a venirci a trovare. Vi prego, accogliete il nostro invito. grazie di cuore al popolo italiano. E grazie anche alla mia avvocatessa che sta facendo salti mortali, che si chiama Cristina Dorigon. Speriamo che si impegna anche lei, magari dare di più e poter rispondere. Quella è un angelo custodi. Lo so, sono stato il suo assistito e sono uscito ieri. E va bene. Vi faccio tanti auguri. Va bene. Allora noi ti ringraziamo. Poi c'è un'ultima cosa, c'è un Dio sopra. Va bene. Dai, ci sentiamo tra pochissimo, anche perché la manifestazione sta arrivando direttamente lì al CIE e magari proviamo a vedere se riusciamo a farvi sentire anche la solidarietà di tutti quelli che sono venuti fuori a parlare con voi. E ci sta anche la mia famiglia fuori con due bambini. Ho capito. Grazie. Allora, a tra grazie pochissimo. Ciao. Ok, ciao. Ciao Mohamed, ciao. Allora, questa era la testimonianza di Mohamed dall'interno del CIE di Ponte Galeria e anche della, insomma, di tutta la sofferenza che esprimeva anche nella sua voce di non poter decidere liberamente di come, dove, quando poter vivere. Il fatto che la sua famiglia è fuori dalla sua, dal posto in cui è detenuto e la possibilità che lui debba lasciare questo paese senza che neanche la sua famiglia lo sappia. Insomma, tutto questo è quotidiano in questo paese, tutto questo succede continuamente e tanti e tantissimi migranti vengono fermati sistematicamente e trasportati in tutti questi luoghi in giro per l'Italia e sequestrati letteralmente, senza neanche le garanzie minime. Noi l'abbiamo detto mille volte, perché se ti arrestano perché hai commesso un reato è più facile che tu abbia quel minimo d'assistenza e di diritti che riguardano, diciamo, le persone che finiscono in carcere per dei reati.